Parliamo allora di inceneritori, di questo tema che sta anche dividendo il governo con la posizione appunto del ministro Salvini favorevole alla realizzazione di nuovi impianti e il Movimento 5 Stelle che si dice contrario. Oggi a Caserta c'è il vertice del governo, ma ci sarà anche Legambiente. Noi siamo al telefono con Stefano Ciafani, presidente nazionale, che saluto, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Voi sarete in presidio appunto a Caserta, perché? Vorremmo in qualche modo dare un contributo di chiarezza rispetto a tutto questo bailam mediatico che è stato dato nei giorni scorsi su tre temi diversi, perché c'è il tema di come chiudere il ciclo dei rifiuti urbani in Campania e non servono gli inceneritori nuovi oltre a quello di Acerra, ma servono gli impianti per trattare l'organico in regione Campania raccolto in maniera differenziata dai comuni più virtuosi, i comuni ricicloni. Il secondo tema è come fronteggiare l'emergenza degli incendi negli impianti di gestione di rifiuti che stanno avvenendo in tutto il paese e non solo in Campania ormai da diversi anni. Terza questione, come affrontare l'irrisolto problema della terra dei fuochi, che è lo smaltimento illegale dei rifiuti speciali prodotto spesso da aziende fantasma che smaltiscono i rifiuti in provincia, tra la provincia di Caserta e Napoli, la vera terra dei fuochi, che poi vengono incendiati all'aria aperta, e questo è un fenomeno che si è un po' ridotto ma continua ad esserci. In questi giorni invece c'è stato un gran cancan mediatico in cui si è mescolato tutto il contrario di tutto e i cittadini ovviamente non hanno capito bene quali sono i problemi e quali sono le soluzioni. Sono tre temi quindi diversi e cominciamo allora da quello dei roghi. Che tipo di fenomeno è? Perché sempre sui giornali si parla di criminalità organizzata, cos'è dovuto? Il tema dei roghi negli impianti di gestione dei rifiuti è un tema che riguarda tutto il paese. Da qualche anno avvengono questi incendi e la commissione bicamerale inchiesta sul ciclo dei rifiuti della scorsa legislatura ne ha anche raccontato in termini numerici la vastità. La commissione dello scorso Parlamento ha contato 300 grandi roghi in impianti di gestione dei rifiuti, cioè 100 all'anno, cioè uno ogni tre giorni. Quindi c'è uno stillicidio di incendi che ovviamente forse sicuramente non hanno una regia unica, questo è quello che pensiamo, ma c'è sicuramente l'uso di uno strumento unico che è il fuoco, che serve per far sparire le prove, perché molti di questi impianti avevano ospitato più rifiuti di quelli per cui erano autorizzati, in seguito anche alla chiusura finalmente della frontiera cinese, perché la Cina da qualche tempo ha smesso di importare rifiuti, noi gli abbiamo spedito spesso delle porcherie, dei rifiuti anche pericolosi spacciandole per materie prime e seconde, quindi la Cina non li prende più, alcuni impianti, gli impianti dell'Europa e anche quelli dell'Italia hanno problemi nel piazzare i rifiuti e quindi alcune aziende hanno troppi rifiuti rispetto a quelli per cui sono autorizzati e magari si accendono i fuochi. Poi ci sono altri impianti che invece vanno a fuoco perché si vogliono far sparire prove di smaltimento di rifiuti pericolosi per cui magari non erano autorizzati, e infine ci sono altri incendi che scoppiano in aziende che sono arrivate a fine vita, sono magari sull'orlo del fallimento e scoppiano questi incendi magari puntando ad avere risarcimento da parte delle assicurazioni. Però ecco, da una parte chiediamo che ci sia comunque una occhio inquirente nazionale, finalmente è ripartita la commissione bicamerale inchiesta sul ciclo dei rifiuti anche in questa legislatura e l'attuale commissione deve proseguire il lavoro di indagine della precedente, e poi chiediamo anche l'intervento della Procura Nazionale Antimafia, perché è fondamentale capire attraverso le inchieste che stanno facendo le direzioni distrettuali antimafia sul territorio nazionale se ci sono anche profili criminali e mafiosi in alcuni di questi eventi, e non abbiamo dubbi che in alcune zone ci sia anche l'ecomafia dietro agli incendi negli impianti. Venendo alla questione degli inceneritori, il dibattito italiano è un po' asfittico, insomma ritorna sempre al punto di partenza, è anche una battaglia lessicale perché appunto c'è chi li chiama inceneritori, chi con un eufemismo termovalorizzatori, si punta anche molto sul tema dell'economia, cioè di quanto possono produrre dai rifiuti questi impianti. Voi proponete sul tema dell'economia, leggevo un vostro comunicato, ribaltate un po' la questione dicendo c'è la possibilità di fare biometano in modo pulito. Esatto, perché insomma Salvini dice c'è l'impianto di Acerra in provincia di Napoli, il terzo più grande impianto di incenerimento del paese dopo quelli di Milano e di Brescia. Le altre quattro province campane devono realizzare ognuno il suo impianto di incenerimento. Noi abbiamo detto che questa è una proposta che non sta in piedi, perché innanzitutto le altre quattro province non producono i quantitativi di rifiuti tali, fatta salva la raccolta differenziata che porta via una parte dei flussi da giustificare quattro impianti. Ma quello che serve alla Campania, dopo aver realizzato l'impianto di incenerimento di Acerra, serve costruire l'impiantistica per riciclare la frazione organica dei rifiuti che i comuni riciclano di quella regione ne raccolgono sempre di più. È bene considerare che la Campania non è più la Campania di 15 anni fa dell'emergenza rifiuti che ci ha fatto finire su tutte le prime pagine dei giornali a livello mondiale. Oggi la Campania è una regione che ha una percentuale di differenziata regionale superiore a quella della Toscana e superiore a quella della Liguria. E se Napoli facesse bene la raccolta differenziata, la Campania sarebbe una delle prime regioni in Italia sulla differenziata. Quello che manca è l'impiantistica per trattare l'organico differenziato che oggi viene raccolto in Campania e se spesso viene poi portato negli impianti di compostaggio o di gestione anaerobica per produrre biometano nel centro nord, anzi nel nord, in Veneto, in Firenze Giulia, in Emilia Romagna o in Lombardia. Allora bisogna dire chiaramente che in Campania si devono realizzare gli impianti di compostaggio e di digestione anaerobica, almeno uno per provincia, in modo tale che il compost venga prodotto sul territorio e venga restituito sui suoli della Campania, e dall'altra parte questi impianti permetterebbero di fare l'unico recupero energetico dei rifiuti che ha senso oggi, cioè produrre nei digestori anaerobici il biogas dal trattamento dell'organico. Quel biogas viene trasformato in biometano e quel biometano lo puoi o immettere nella rete e quindi ci cucini o ci riscaldi gli edifici, oppure lo utilizzi per l'autotrazione. Questi impianti servono e questo bisogna dire anche al Movimento 5 Stelle, perché il Movimento 5 Stelle parla sempre di dice giustamente no a nuovi inceneritori, ok, ma non dice mai che bisogna fare gli impianti industriali per trattare l'organico, perché il problema dell'organico differenziato in Campania, come nel resto del centro-sud, non lo risolviamo solo con le compostiere domestiche o con le compostiere di comunità, che possono servire piccoli nuclei abitativi. Nelle città medio-grandi, nei capoluoghi di provincia e nelle metropoli bisogna fare gli impianti industriali per trattare l'organico, e questo il Movimento 5 Stelle lo deve dire ora che è al governo nazionale. Governa grandi città a partire da Roma, servono gli impianti industriali per trattare l'organico, altrimenti si prendono in giro i cittadini. Ecco, un'ultima domanda più generale, perché appunto sempre in un vostro comunicato voi avete messo insieme la questione del condono a Ischia a quest'ultimo dibattito sugli inceneritori, dicendo alla faccia del cambiamento. Perché il dibattito in Italia su questi temi fa sempre così fatica? Sì, noi siamo rimasti davvero colpiti come il Movimento 5 Stelle, dopo pochi mesi di governo, possa già vantare due condoni edilizi, quello su Ischia e quello sul centro Italia per la ricostruzione delle zone terremotate, e poi tutte le norme che noi auspicavamo si potessero approvare dal governo e da questo Parlamento sulla falsariga di quello che aveva fatto già il Parlamento nella scorsa legislatura, che ricordiamo è stato il Parlamento che ha approvato il maggior numero di leggi di iniziativa parlamentare sui temi ambientali della storia repubblicana. Speravamo che in questa legislatura si potesse, visto il risultato importante del Movimento 5 Stelle, visto che l'ambiente è stato sempre un pilastro delle azioni del Movimento, eravamo abbastanza certi che si potesse continuare su questa falsariga, e così non è andata purtroppo fino ad oggi. E questo da parte del Movimento 5 Stelle i primi mesi sono stati veramente deludenti sotto diversi punti di vista. Poi insomma continuiamo a guardare con grande invidia quello che succede nel nord Europa, a partire dalla Germania, dove i Grünen, i Verdi, sono un partito di governo e governano anche nei Länder più industrializzati, ma lì c'è un ambientalismo diverso, un ambientalismo non ideologico in politica. I nostri ambientalisti, i Verdi italiani, hanno sempre detto esclusivamente sempre solo no, perdendo di credibilità, questo diciamo dagli anni 90 ad oggi. Quindi purtroppo la sensibilità ambientale nei cittadini del nostro paese continua ad aumentare, non lo vediamo nelle campagne di volontariato, nelle campagne di sensibilizzazione che facciamo ogni anno. Insomma, a Puliamo il Mondo lo scorso settembre hanno partecipato 600.000 persone in tutto il paese. Ecco, queste persone che hanno grande sensibilità ambientale, ed è crescente questa sensibilità, quando vanno a votare si devono accontentare. Questo nel nostro paese purtroppo continua ad essere una realtà, anche perché il Movimento 5 Stelle fino ad oggi ha praticato in politica un ambientalismo altrettanto ideologico, e adesso che sono al governo nazionale è successo sull'Ilva di Taranto, è successo sulla TAP, il gasdotto in Puglia, e cominciano e probabilmente succederà anche sulla TAV in Valsusa, in Piemonte. Ecco, insomma, un conto è andare in piazza e magari appoggiare il comitato di turno, come ha sempre fatto il Movimento 5 Stelle, è un altro conto è governare una città, governare una regione o governare il paese. Quello che è avvenuto in questi mesi è una, diciamo, nel Movimento 5 Stelle è una distinzione molto evidente tra quello che dicevano in piazza, a partire dagli slogan sull'onestà, e quello che stanno facendo quando stanno nella stanza dei bottoni, approvare ad esempio un condono edilizio come quello su whisky al Centinella che, come tutti i condoni precedenti, premia sempre i disonesti con buona pace di chi ha rispettato la legge. E questo per noi è una delusione. Speriamo che nei prossimi mesi il Movimento 5 Stelle al governo nazionale possa indirizzare la rotta sui temi ambientali, energetici e climatici, che insomma di cui ha un gran bisogno tutto il paese. Io ti ringrazio. Grazie a voi. Buona giornata. A te, a presto.